e non finisce mai la mia sete di verità. E l'alba rincomincia sempre la mia sete di verità. Eterna come i nostri monti, come i primi fiori, la cerchi come quando frughi gli occhi di chi ami. In fondo a tutto sei tu, Signore, la mia fonte di verità, la mia fonte di verità. In fondo a tutto sei tu, Signore, la mia fonte di verità, la mia fonte di verità. Sono fermato spesso al sole lungo queste strade, a tutte le sorgenti umane ho bevuto arsura, e mi chiedevo dentro il cuore io chi sono, e ogni mio respiro cerca questa verità. In fondo a tutto sei tu, Signore, la mia fonte di verità, la mia fonte di verità. Quando tutto sei tu, Signore, la mia fonte di verità, la mia fonte di verità. Mi sono poi deciso a bere l'acqua del mio pozzo, una sorgente sempre fresca, non finisce mai. È un'acqua sempre nuova e non sai mai da dove viene. E ogni giorno è sempre nuova la mia verità. In fondo a tutto sei tu, Signore, la mia fonte di verità, la mia fonte di verità.